Calderoli ha smentito in una nota di aver chiesto al Presidente del Consiglio un passo indietro. E mi pare che l'alleanza che è stata solida fino ad oggi continui ad esserlo, perché la prospettiva del PDL e della Lega è una prospettiva comune che nega la disponibilità ad un governo di larghe intese, ad un governo tecnico. PDL e Lega credono che o ci sono i numeri in Parlamento, come noi pensiamo che ci siano, ma nel momento in cui dovessero venire meno, l'unica strada è ridare la voce agli elettori. Noi crediamo che la maggioranza ci sia al Senato come alla Camera, e comunque è sbagliato pensare a un Presidente del Consiglio occupato con il pallottoliere a contare il numero dei deputati. In realtà il Presidente Berlusconi è da giorni impegnato nella stesura del maxiemendamento e soprattutto nell'attuazione delle misure UE. Noi dobbiamo, questo è un mio parere personale, non avere paura delle lobby, dei salotti, di tutti coloro che ostacolano il cambiamento. Dobbiamo essere più coraggiosi sulla strada di un'attuazione delle riforme, e questo è l'intendimento del Presidente Berlusconi. Io ritengo che oggi ci siano le condizioni perché Berlusconi possa riproporsi. È chiaro che il centrodestra vincerà o perderà le elezioni sulla base del suo tasso di riformismo, e su questo noi dobbiamo fare passi in avanti, perché l'autocritica che faccio è legata alla difficoltà che abbiamo avuto nel fare le riforme. Qualche volta ci siamo fermati, qualche volta abbiamo avuto paura della piazza. Io ritengo che invece gli italiani premieranno coloro che sapranno fare le riforme.